Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. We'll be right back. Mi era così profondamente radicata nella coscienza che penso di aver creduto per tutto il primo anno scolastico che ognuna delle mie insegnanti fosse mia madre travestita. Come suonava la campanella dell'ultima ora, mi precipitavo fuori di corsa, chiedendomi se ce l'avrei fatta ad arrivare a casa prima che riuscisse a trasformarsi di nuovo. Al mio arrivo, lei era già regolarmente in cucina, intenta a prepararmi latte e biscotti. Invece di spingermi a lasciar perdere le mie fantasie, il fenomeno non faceva che aumentare il mio rispetto per i suoi poteri. Questo era l'incipit del Lamento di Portnoy di Philip Roth. My most solemn vow that justice will be swift, it will be righteous, and it will be without mercy. Walks amongst you, all you tired human beings. He's got all the things a cripple has not, two working arms and legs. And vital parts fall from his system and dissolve in Scottish rain. Vitally, he doesn't miss him, he's too fucked up to care. Is that you in front of me? Coming back for even more, exactly the same. You must be a masochist. The love of modern laughter and his last leg. can't work out why. You see, I've got this disease, I can't shake and I'm just rattling through life. Oh, well, this is how we do things now, yeah, this is how the modern stays scared. So I cut all the good stuff, yeah, I cut my food despite my. Seconda parte di Eclettica in compagnia di Giulio Caperdoni, in compagnia di V for Vendetta, in compagnia di Philip Roth, ma solo ancora per oggi, per quanto riguarda quest'ultimo, poi da domani si cambia penna. E per quanto riguarda la musica di questa seconda parte del volume numero 3, volumi che vanno in onda sempre fra le 19 e le 20, per quanto riguarda la musica abbiamo aperto con Misophone, The Sea Has Spoken, dall'Inghilterra, e poi Il Genio, Pop Porno, dalle Puglie, e poi ancora Frightened Rabbit dalla Scozia con The Modern Leper. E per quanto riguarda la collocazione geografica, sono un po' in difficoltà con il prossimo progetto, in quanto ci sono artisti che provengono da posti diversi. È un progetto che mette assieme Chris Brokaw, ex Calm ed ex Codeine, Chris Heckman, ex Walkabouts, e Hugo Reis, possiamo dire ex Bad Seeds. Sono usciti per Glitterhouse Records con un album intitolato Dirt Music, che è anche il nome del progetto che hanno deciso di adottare, i tre che fra l'altro porteranno in un tour europeo dal 22 aprile all'11 maggio. È un disco questo dove i tre ritornano alle origini, alla formula basata sull'uso di strumenti acustici come chitarre, dobro, banjo, dal quale vado ad estrarre la traccia numero 3. Si tratta di Sun City Casino. go back to the casino. I swung high and I followed. Hear you calling me, but I don't wanna go. You keep on pushing me along. Keep on pushing me forward. I wasn't born to follow. Cosa diavolo ci fa lei su un autobus, con tutta la grana che ha? A volerlo sapere era un giovanotto piccolo e robusto, con i capelli a spazzola e un completo nuovo. Stava sognando occhi aperti davanti a una rivista di automobili, quando aveva riconosciuto la persona seduta accanto a lui. Per dargli la carica non ci volle altro. Senza farsi intimidire dalla scortese risposta di Zuckerman, era in autobus per farsi trasportare da un posto all'altro, il tipo gli diede allegramente un consiglio. Ormai facevano tutti così, se riuscivano a scovarlo. Lei dovrebbe comprarsi un elicottero, ecco quello che farei io, garantirsi il diritto di atterrare sui tetti delle case e smetterla di pestare la cacca dei cani. Ehi, vede questo signore? La seconda domanda era rivolta a un uomo in piedi che stava leggendo il Times. Questo era l'incipit di Zuckerman scatenato, di Philip Roth. Ha fatto una scelta diversa rispetto a quella del passato, dall'album di Thao Nguyen con i Get Down Stay Down. In questo caso era Beat, Health, Life and Fire. E si chiude Eclettica di quest'oggi con un gruppo australiano che uscirà fra qualche settimana con un album intitolato Worldwide, che è anticipato da un singolo, Negative Thinking. Loro si chiamano The Dead Set. Però voglio chiudere anche con le parole di un ascoltatore, uno dei tanti che ha scritto a Giulio tra Radio Rock FM. Com. A volte le parole che scrivete sono lineari, semplici da capire, altre volte non così lineari, non così semplici. Questo me lo sono dovuto leggere un po' di volte prima di riuscire a capirlo in tutti i suoi dettagli. Chi scrive è Giovanni. Le spedisco tutto questo per una serie tumultuosa e emozionante di ragioni. Perché cerca con disperata convinzione di estraniarsi dal terribile e limaccioso terreno della regolarità. Dal potere dei consumi, dal nuovo fascismo, dal conformismo dei progressisti e dei progressismi. Buona vita, embrione, feto e bambino, Giulio, e vero uomo, Giulio, l'unico che mi abbia fatto fermare l'auto più volte per ascoltare con attenzione la coscienza, la voce reale di una radio di voci omologate e per questo senza voce. I'm not trying to be unfair, it's just that negative thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thinking. Thin Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 20, volume numero 3, indice, Cloud Cult, 4th of July, Ungdomsskolen, Our Brother the Native, Girls in Hawaii, Misophone, Il Genio, Frightened Rabbit, Dirt Music, Thou with a Get Down, Stay Down, The Death Set. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.